714. Gelatina di arancio in gelo. Zucchero grammi 150, colla di pesce grammi 20, acqua decilitri 4, al kermes 4 cucchiaiate, rum 2 cucchiaiate, un arancio dolce grosso, un limone. Mettete la colla in molle e cambiando una volta l'acqua lasciatevela per un'ora o due. Fate bollire lo zucchero nella metà dell'acqua suddetta per 10 minuti e passatelo per un pannolino. Spremete in questo siroppo l'arancio e il limone, passandone il sugo dallo stesso pannolino. Levate la colla già rinvenuta e fate che alzi il bollore nei 2 decilitri dell'acqua rimasta e versate anche questa nel detto siroppo. Aggiungete al medesimo l'alchermes e il rum. Mescolate ogni cosa e quando comincia a freddare, versatelo nello stampo tenuto nel ghiaccio d'estate e nell'acqua fredda d'inverno. Gli stampi di questa sorte di dolci sono di rame, tutti lavorati a guglie, alcuni col buco in mezzo, altri senza, onde ottenere un bel effetto in tavola. Per sformarla bene, ungite leggermente prima di versare il composto lo stampo con olio ed immergetelo poi per un momento nell'acqua calda o strofinatelo con un cencio bollente. La colla di pesce non è nociva, ma ha l'inconveniente di riuscire alquanto pesante allo stomaco.